Capitolo quinto. La grande nube che incombeva non solo su Londra, ma su tutte le isole britanniche il primo giorno del XIX secolo si mantenne stabile, o meglio instabile, essendo continuamente sballottata da raffiche burrascose, abbastanza a lungo da avere conseguenze straordinarie su chi viveva sotto la sua ombra. Nel clima dell'Inghilterra parve sopravvenuto un cambiamento. La pioggia cadeva di frequente, ma solo a scrosci irregolari che riprendevano appena finiti. Il sole splendeva, ovviamente, ma era così immerso nelle nubi e l'aria era così satura di umidità che i suoi raggi erano sbiaditi e i viola, gli arancioni e i rossi smorti si erano sostituiti al paesaggio più deciso del XVIII secolo. Sotto quella volta livida e mesta, il verde dei cavoli era meno intenso e il bianco della neve intorbidato. Ma il peggio era che l'umidità cominciava a infiltrarsi in casa. L'umidità è il nemico più insidioso, perché se il sole si può arginare con gli scuri e il gelo sciogliere nella fiamma di un fuoco ardente, l'umidità si insinua furtiva mentre dormiamo. L'umidità è silenziosa, impercettibile, onnipresente. L'umidità gonfia il legno, incrosta la pentola, arrugginisce il ferro, fa marcire la pietra. Il processo è così graduale che solo quando solleviamo il cassettone o il secchio del carbone e ci si fanno a pezzi in mano, cominciamo a sospettare che il morbo sia all'opera. Così, furtivamente e impercettibilmente, senza che nessuno notasse l'ora o il giorno del cambiamento, il carattere dell'Inghilterra si era trasformato e nessuno lo sapeva. Se ne sentirono gli effetti ovunque. Il rude gentiluomo di campagna, che si era seduto allegramente a tavola davanti a un piatto di manzo e alla birra in una sala forse disegnata con classica dignità dai fratelli Adams, ora si sentiva infreddolito. Apparvero le coperte, crebbero le barbe, i pantaloni furono allacciati stretti sotto il collo del piede. Il brivido che il gentiluomo di campagna sentiva alle gambe si propagò subito alla sua casa. I mobili vennero imbottiti, pareti e tavoli ricoperti, non fu lasciato niente nudo. Poi si impose anche un cambiamento nella dieta. Si inventarono i muffins e i crumpets. Il caffè sostituì il porto dopo pranzo e siccome il caffè esigeva un salotto dove berlo, il salotto delle campane di vetro e le campane di vetro dei fiori finti e i fiori finti dei caminetti e i caminetti dei pianoforti e i pianoforti delle romanze da salotto e le romanze da salotto, saltiamo qualche passaggio, innumerevoli cagnolini, tappeti, soprammobili di porcellana, ecco che la casa, diventata importantissima, cambiò completamente aspetto. All'esterno, altro effetto dell'umidità, l'edera crebbe con un rigoglio inaudito. Case che erano state di pietra nuda furono soffocate sotto la verdura. Non c'era giardino, per quanto severo fosse il suo disegno originario, che non avesse la sua nicchia, il suo selvatico, il suo labirinto. La luce che filtrava nelle camere dove nascevano i bambini era naturalmente di un verde slavato, e la luce che penetrava nei soggiorni dove vivevano gli adulti giungeva attraverso cortine di felpa marrone o violetta. Ma il mutamento non si limitava alle cose esteriori. L'umidità incise nel profondo, gli uomini sentirono il freddo nel cuore, l'umidità nell'anima. In uno sforzo disperato di avvolgere i loro sentimenti in un po' di tepore, cercarono un espediente dopo l'altro. L'amore, la nascita e la morte furono avviluppati in una quantità di belle frasi. I due sessi si allontanarono sempre più l'uno dall'altro. Non fu più tollerata nessuna conversazione aperta. Sotterfugi e ipocrisie vennero ampiamente praticati da ambo le parti. E come fuori, nella terra umida, l'edera e i sempreverdi crescevano a dismisura, così, all'interno delle case, si manifestava un'uguale fecondità. La vita della donna normale era una serie di puerperi: a 19 anni si sposava, a 30 era madre di 15 o 18 figli, perché i gemelli abbondavano. Così sorse l'impero britannico e così l'umidità è irrefrenabile, invade il calamaio quanto il legname. Le frasi si gonfiarono, gli aggettivi si moltiplicarono, la lirica si trasformò in epica, ed inezie che prima occupavano un articolo di una colonna diventarono enciclopedie di 10 o 20 volumi. Citeremo il caso di Eusebius Chubb, a dimostrazione dell'effetto che questo stato di cose ebbe sullo spirito di un uomo sensibile che non poté far nulla per opporvisi. alla fine delle sue memorie, c'è un brano in cui narra che una mattina, dopo aver scritto 35 pagine in folio tutte su niente, chiuse il coperchio del calamaio e se ne andò a fare un giro in giardino. Subito si trovò nel folto. Innumerevoli foglie stormivano e brillavano sopra il suo capo. Gli parve che il piede calpestasse la polvere di milioni e milioni. Un fumo denso saliva da un falò d'erba umida in fondo al giardino. Rifletté che nessun fuoco al mondo avrebbe mai potuto sperare di consumare quel vasto groviglio di vegetazione che si arrampicava ovunque volgesse lo sguardo. Nell'erba cetrioli si avvolgevano strisciandogli fino ai piedi. Cavolfiori giganti troneggiavano a strati fino a rivaleggiare nella sua fantasia scomposta con gli stessi olmi. Galline deponevano senza tregua uova incolori. Poi, ricordandosi con un sospiro della propria fecondità e della povera moglie Jane che in casa stava soffrendo le doglie del quindicesimo parto, si chiese con che animo avrebbe potuto biasimare il pollame. Alzò lo sguardo al cielo. Non era forse il cielo stesso o quel suo gran frontespizio che è la volta celeste ad indicare il consenso, anzi l'istigazione delle gerarchie celesti? Là, rifletteva, estate e inverno da un anno all'altro, le nuvole rotolavano e ricadevano come balene, pensò, o meglio come elefanti. Invano. No, non c'era scampo al paragone che gli imponevano 1.000 ettari aerei. Il cielo intero che si stendeva sulle isole britanniche non era altro che un immenso letto di piume. A esso si ispirava la fecondità indiscriminata del giardino, della camera da letto e del pollaio. Rientrò in casa, scrisse il brano sopracitato, infilò la testa in una stufa a gas e quando poco dopo lo trovarono era troppo tardi. Mentre queste cose accadevano in gran parte dell'Inghilterra, Orlando aveva un bel segregarsi nella sua casa di Blackfriars e pretendere che il clima fosse immutato, che si potesse dire quel che saltava in mente e portare calzoni o gonne a piacimento. Anche lei, alla fine, fu costretta ad ammettere che i tempi erano cambiati. Un pomeriggio, nei primi decenni del secolo, attraversava St. James Park nella sua vecchia carrozza imbottita, quando uno di quei raggi di sole, che ogni tanto, benché di rado, riuscivano a giungere fino a terra, squarciò le nubi, marmorizzandole, nel passaggio, di strani colori prismatici. Quella vista era abbastanza singolare, dopo i cieli chiari e uniformi del XVIII secolo, da indurla ad abbassare il finestrino e guardare. Le nubi color pulce e fenicottero la fecero pensare, con angoscia deliziosa, il che prova quanto fosse già afflitta dall'umidità, a delfini morenti tra i flutti dello Ionio. Ma quale non fu la sua meraviglia quando il raggio di sole, nel colpire la terra, parve farne scaturire o illuminarvi una piramide, o un'ecatombe, o un trofeo, evocava anche una tavola imbandita. Una congerie, insomma, degli oggetti più eterogenei e male assortiti che la fantasia potesse immaginare, accatastati alla rinfusa in un gran mucchio, là dove ora sorge il monumento alla regina Vittoria, drappeggiati intorno a un'enorme croce d'oro filigrana e a motivi floreali, pendevano veli da vedova e veli da sposa, agganciati ad altre escrescenze c'erano palazzi di cristallo, culle di vimini, elmi, corone, funebri, pantaloni, basette, torte nuziali, cannoni, alberi di Natale, telescopi, mostri antidiluviani, globi, mappe e strumenti matematici. Il tutto sorretto come un gigantesco blasone, a destra da una figura di donna in bianche vesti fluttuanti, a sinistra da un signore panciuto in finanziere e pantaloni a tubo. L'incongruenza di quegli oggetti, l'accostamento di vestiti completi e drappeggi sommari, la stravaganza dei diversi colori e la loro giusta posizione, come in un plaid scozzese, causarono a Orlando uno sconforto profondo. Mai in vita sua aveva visto nulla di così indecente, di così ripugnante e monumentale. Doveva essere, anzi era senz'altro, un effetto di sole sull'atmosfera carica di umidità. Alla prima brezza sarebbe svanito, eppure al suo passaggio aveva l'aria di voler durare per sempre. Sprofondandosi in un angolo della carrozza, sentì che nulla, né vento, né pioggia, né sole, né tuono, avrebbe mai demolito quella costruzione vistosa. I nasi si sarebbero chiazzati, le trombe ricoperte di ruggine, ma sarebbero rimasti là in eterno, puntati a est, a ovest, a nord e a sud. Gettò un'occhiata all'indietro mentre la carrozza saliva per il Constitution Hill. Sì, eccolo là, placidamente splendente in una luce che, estrasse l'orologio dal taschino, era naturalmente la luce di mezzogiorno in punto. Nessun'altra luce avrebbe potuto essere tanto prosaica, tanto concreta, tanto refrattaria a ogni accenno di alba e di crepuscolo, tanto palesemente calcolata per durare in eterno. Era decisa a non guardare più. Già sentiva l'onda del sangue scorrere pigra, ma la cosa più singolare fu che, passando davanti a Buckingham Palace, un rossore vivido e inusitato le invase le guance e che una forza superiore la costrinse a guardarsi le ginocchia. Sussultando, vide all'improvviso che portava pantaloni neri. Il rossore non sparì finché non fu giunta alla sua casa di campagna e, considerando il tempo che impiegano quattro cavalli a percorrere 30 miglia al trotto, valga questo, speriamo, come prova evidente della sua castità. Una volta a casa, obbedendo a quello che adesso era diventato il bisogno più imperioso della sua natura, si avvolse come meglio poté in una coperta di damasco strappata dal letto. Alla vedova Bartholomew, che era succeduta alla vecchia governante, spiegò che si sentiva infreddolita. «Oh, anche tutti noi, Milady», disse la vedova con un gran sospiro. «I muri colano», disse con uno strano, lugubre compiacimento. Ed era chiaro che le bastava appoggiare una mano sui pannelli di quercia perché ci restasse l'impronta delle cinque dita. L'edera era cresciuta con tanta profusione che ora molte finestre erano bloccate. La cucina era così buia che si distingueva a malapena una pentola da un colino. Un povero gatto nero era stato scambiato per carbone e gettato con una palata nel fuoco. Benché fosse agosto, la maggior parte delle cameriere portavano già 3 o 4 sottovesti di flanella. «Ma è vero, Milady?» chiese la buona donna, stringendosi le braccia al seno su cui troneggiava il crocifisso d'oro. «Che la regina, Dio la benedica, porta una, come si dice, una...» esitò la buona donna, arrossendo. «Una crinolina», la tolse d'imbarazzo Orlando. La parola era arrivata a Blackfriars. La signora Bartholomew assentì. Le lacrime le scorrevano già sulle guance, ma piangendo sorrideva. Era piacevole piangere. Non erano tutte quante deboli donne che portavano la crinolina per dissimulare il gran fatto, l'unico fatto, e ciò non di meno il deplorevole fatto, quello che ogni donna per bene faceva del suo meglio per negare, finché negarlo era impossibile, il fatto che stava per avere un bambino. Anzi, 15, 20 bambini, per cui una donna per bene passava in effetti la maggior parte della vita a negare un fatto che almeno una volta l'anno diventava evidente. «I muffins stanno al caldo», disse la signora Bartolomeo asciugandosi le lacrime, «in biblioteca». E avvolta in una coperta di damasco, davanti a un piatto di muffins, Orlando si sedette. «I muffins stanno al caldo in biblioteca», Orlando ripeté l'orrenda frase dialettale, parodiando il raffinato accento londinese della Bartolomeo, mentre beveva, ma no, odiava quel beveraggio insulso, il tè. Era proprio in quella stanza, ricordò, che la regina Elisabetta si era piantata davanti al caminetto con un boccale di birra in mano e lo aveva sbattuto sul tavolo quando Lord Burghley aveva usato inopportunamente l'imperativo anziché il condizionale. Piccolo uomo, le pareva ancora di sentirla. Dovete? È forse una parola da usare coi principi? E giù un colpo di boccale sul tavolo. C'era ancora il segno. Ma mentre Orlando scattava in piedi, come esigeva il solo pensiero di quella grande regina, inciampò nella coperta e ricadde in poltrona con una bestemmia. Domani bisognava comprare almeno 20 yards di bambagina nera, rifletté, per farsi una gonna. E poi, qui arrossì, avrebbe dovuto comprare una crinolina. E poi, qui arrossì, una culla di vimini. E poi un'altra crinolina e così via. I rossori andavano e venivano col più squisito alternarsi di pudore e di modestia. Si poteva vedere lo spirito del tempo soffiare, ora freddo, ora caldo, su quelle guance. E se lo spirito del tempo soffiava un po' irregolarmente, perché il rossore veniva prima per la crinolina che per il marito, la giustifica la sua posizione ambigua, anche il suo sesso era tuttora in discussione, e la vita irregolare vissuta fino ad allora. Finalmente le sue guance ripresero il colore naturale e lo spirito del tempo, se tale era, parve assopirsi per un po'. Allora Orlando si palpò il petto sotto la camicia, come cercando un medaglione o una reliquia d'amore perduto, ma non estrasse nulla di simile, bensì un rotolo di carta macchiato dall'acqua marina, macchiato dal sangue e dai viaggi, il manoscritto del suo poema La Quercia. Lo aveva portato con sé ormai per tanti anni in circostanze così fortunose che molte pagine erano macchiate, altre strappate. E la penuria di carta da scrivere, sofferta quando era con gli zingari, l'aveva costretta a riempire tutti i margini e a scrivere per traverso, cosicché il manoscritto pareva un coscienziosissimo rammendo. Ci lavorava ormai da quasi 300 anni, era tempo di finirlo. Intanto aveva cominciato a sfogliarlo, soffermandosi a tratti a leggere, mentre pensava quanto poco fosse cambiata in tutti quegli anni. Era stata un ragazzo malinconico, innamorato della morte come sono i ragazzi, poi era stata amorosa e florida, e poi vivace e satirica, e si era cimentata ora con la prosa, ora col dramma. Ma attraverso tanti cambiamenti era rimasta, rifletteva, fondamentalmente la stessa, con lo stesso temperamento meditabondo e contemplativo, lo stesso amore per gli animali e la natura, la stessa passione per la campagna e il paesaggio. Dopotutto, pensò alzandosi e andando alla finestra, nulla è cambiato. La casa e il giardino sono esattamente come erano. Non una sedia è stata spostata, non un ninnolo venduto. Ci sono gli stessi viali, gli stessi prati, gli stessi alberi, lo stesso stagno con dentro, ci giurerei, la stessa carpa. È vero, sul trono c'è la regina Vittoria e non la regina Elisabetta, ma che differenza. Questo pensiero si era appena formato, che la porta si spalancò come un rimprovero e il maggiordomo Basket, seguito dalla governante Bartholomew, entrò solenne per portare via il tè. Orlando, che aveva appena immerso la penna nell'inchiostro e si accingeva a vergare qualche riflessione sull'eternità di tutte le cose, fu molto contrariata di vedersi ostacolare da una macchia che si spandeva serpeggiando dalla penna. Un difetto della cannuccia, immaginò, era rotta o sporca. La intinse di nuovo. La macchia si ingrandì, tentò di continuare la frase, le parole non venivano. Allora si mise a decorare la macchia di ali e di basettoni, finché diventò un mostro dalla testa rotonda, qualcosa fra il pipistrello e il vombato. Ma quanto a scrivere versi con Basket e la Bartholomew nella stanza era impossibile. Aveva appena detto impossibile, che con suo grande stupore e spavento, la penna si mise a scorrere e a caracollare con una leggerezza e una fluidità prodigiose. La pagina si riempì dei versi più insipidi che avesse mai letto in vita sua, scritti nel più nitido corsivo. E io non sono che un umile anello nella grave catena della vita, ma la parola di giurata fede, oh, che non sia svanita. La fanciulla di cui scintilla il pianto, solitario nel lume della luna, piangendo per l'assente o per l'amato, mormorerà. Scrisse di getto, mentre Basket e la Bartholomew brontolavano e grugnivano per la stanza, attizzando il fuoco, raccogliendo i muffins. Intinse di nuovo la penna e questa proseguì. Era così mutata, e quella nube soave ed incarnato che le copriva la guancia, simile al roseo lume che la sera effonde in cielo, era svanito, rotto da un baglior fioco di funebre torcia. Ma a questo punto, con un movimento brusco, rovesciò l'inchiostro sulla pagina e la cancellò, sperò per sempre, alla vista umana. Era tutto un brivido, tutto un ribollimento. Non si poteva immaginare niente di più ripugnante che sentir fluire quell'inchiostro in cascate di ispirazione involontaria. Ma cosa le accadeva? Era l'umidità? Era la Bartholomew? Era Basket? Cosa? Si chiese. Ma la stanza era vuota. Nessuno le rispose, a meno che il gocciare della pioggia sull'edera fosse una risposta. Intanto, in piedi davanti alla finestra, si sentiva pervadere tutta da un formicolio, da un tremito insoliti, come se fosse fatta di mille corde su cui la brezza o delle dita erranti suonassero scale. Ora il tremito era nelle dita dei piedi, ora nel midollo. Provava le sensazioni più strane lungo i femori. Le pareva di sentirsi rizzare i capelli, le braccia le cantavano e vibravano come avrebbero cantato e vibrato 20 anni dopo i fili del telegrafo. Ma tutta quell'agitazione parve infine concentrarsi nelle mani e poi in una mano sola. e poi in un dito solo di quella mano e finalmente contrarsi in un anello di sensibilità vibrante intorno al secondo dito della mano sinistra. Quando lo alzò per vedere che cosa causasse tanta agitazione, non vide nulla, nulla fuorché l'enorme solitario, lo smeraldo che le aveva dato la regina Elisabetta. E non era abbastanza, si chiese. Era della più bell'acqua. Valeva almeno 10.000 sterline. Nel modo più bizzarro, la vibrazione, ma non dimentichiamo che stiamo assistendo a una delle manifestazioni più oscure dell'animo umano, sembra rispondere: no, non è abbastanza. Per poi assumere un tono interrogativo, quasi volesse dire cosa significava quello iato, quella lacuna, finché la povera Orlando si vergognò positivamente del secondo dito della sua mano sinistra, senza sapere minimamente il perché. In quel momento la Bartolomeo rientrò per chiedere quale vestito doveva preparare per la cena, e Orlando, i cui sensi si erano molto acuiti, lanciò subito uno sguardo alla mano sinistra della Bartolomeo e si accorse di ciò che non aveva mai notato prima. Uno spesso anello di un giallo un po' itterico cerchiava l'anulare, mentre il suo era nudo. «Fatemi vedere il vostro anello, Bartolomeo», disse tendendo la mano per prenderlo. A quel gesto la Bartolomeo reagì come se fosse stata colpita in pieno petto da un furfante. Indietreggiò di qualche passo, serrò la mano e l'alzò sopra la testa con un gesto di estrema nobiltà. «No», disse con risoluta dignità. «Sua Grazia poteva guardarlo se voleva, ma quanto a togliersi l'anello nuziale, né l'arcivescovo, né il papa, né la regina Vittoria in trono avrebbero potuto costringervela. Il suo Thomas gliel'aveva messo al dito 25 anni, 6 mesi e 3 settimane prima. Ci aveva dormito, lavorato, lavato, pregato e si proponeva di farcisi seppellire». In effetti Orlando la sentì dire, ma con voce fioca e rotta dall'emozione, che le sarebbe stato assegnato un posto fra gli angeli in base allo splendore della sua fede nuziale. La sua lucentezza si sarebbe offuscata per sempre se lei se ne fosse separata per un attimo. «Il cielo ci aiuti», disse Orlando, guardando dalla finestra i giochi dei piccioni. «In che mondo viviamo? Ma in che mondo?» Tutte quelle complicazioni la sconcertavano. Ora le pareva che il mondo intero fosse cerchiato d'oro. Andò a pranzo, gli anelli nuziali abbondavano. Andò in chiesa, gli anelli nuziali erano ovunque. Uscì in carrozza, d'oro o di similoro, sottili, spessi, semplici, levigati, risplendevano cupamente su ogni mano. Le vetrine dei gioiellieri erano piene di anelli, non della luccicante bigiotteria dei diamanti che Orlando ricordava, ma di semplici cerchietti senza pietra. Contemporaneamente cominciò a notare una nuova abitudine fra la gente di città. Ai vecchi tempi ci si imbatteva abbastanza spesso in un ragazzo che se la spassava con una ragazza sotto una siepe di biancospini. A molte di queste coppie Orlando aveva dato un colpetto con la punta del frustino e ridendo aveva proseguito. Ora tutto era cambiato. Le coppie arrancavano e si trascinavano in mezzo alla strada, legate indissolubilmente. La mano destra della donna era invariabilmente infilata sotto la sinistra dell'uomo, che le serrava fermamente le dita. Spesso non si scansavano finché non avevano addosso il muso dei cavalli e quando poi si spostavano si dirigevano rigidi, impalati verso il ciglio della strada. La sola ipotesi di Orlando era che fosse stata fatta qualche nuova scoperta sulla razza, che fossero come saldati insieme, coppia a coppia, ma chi l'avesse fatta e quando lo ignorava. Non sembrava che fosse stata la natura. Guardava le colombe o i conigli o i levrieri e non le pareva che la natura avesse cambiato stile, almeno dall'epoca elisabettiana in poi. Tra le bestie che vedeva non c'erano legami indissolubili. Era stata la regina Vittoria allora? O Lord Melbourne? Proveniva da loro la grande scoperta del matrimonio? Eppure, rifletté, si diceva che la regina avesse una passione per i cani e che Lord Melbourne avesse una passione per le donne. Era strano, era disgustoso. C'era davvero in quell'indissolubilità di corpi qualcosa che ripugnava al suo senso di decenza e di igiene. Ma questo rimuginare era accompagnato da un tale formicolio e tremiti del dito sofferente che stentava a mantenere lucidi i pensieri. Diventavano languidi e struggenti come le fantasie di una cameriera. La facevano arrossire. Non c'era altro da fare che comprare uno di quei brutti cerchietti e portarlo come tutti gli altri. Così fece e se lo infilò al dito, vergognandosi all'ombra discreta di una tenda. ma non le giovò. Il formicolio persisteva, più violento, più irritante che mai. Quella notte non chiuse occhio. La mattina dopo, quando prese la penna per scrivere o non riusciva a pensare a nulla e la penna lacrimava grandi macchie d'inchiostro una dopo l'altra, oppure, cosa ancora più allarmante, si perdeva in fluenti mellifluità sulla morte prematura e sulla corruzione, che erano ancor peggio del non pensare affatto. Perché sembrava evidente, il suo caso ne era una prova, che scriviamo non con le dita, ma con tutta la persona. Il nervo che controlla la penna si avvolge a ogni fibra del nostro essere, trapassa il cuore, trafigge il fegato. Per quanto la sede del suo malessere sembrasse la mano sinistra, si sentiva intossicata da capo a piedi e infine fu costretta a prendere in considerazione il più radicale dei rimedi, piegarsi completamente allo spirito del tempo e prendere marito. Che questo fosse assai contrario al suo temperamento naturale è stato chiarito a sufficienza. Quando il rumore di ruote della carrozza dell'arciduca si spense, il grido che salì alle labbra di Orlando fu «Vita, un amante, non vita, un marito». Per questo scopo era andata in città e corse per il mondo, come abbiamo visto nel capitolo precedente. Tuttavia, è così indomabile la natura dello spirito del tempo che atterra chiunque cerchi di opporglisi, assai più di chi lo asseconda. Orlando era stata naturalmente incline allo spirito elisabettiano, allo spirito della Restaurazione, allo spirito del XVIII secolo, e quindi si era appena resa conto dei mutamenti da un'età all'altra. Ma lo spirito del XIX secolo le era estremamente antipatico, e perciò ne fu sopraffatta, spezzata, e come mai prima si rese conto della disfatta subita d'opera sua. Non è improbabile che lo spirito umano abbia un posto assegnato nel tempo. Alcuni nascono per quest'epoca, altri per quella. E ora, che Orlando era una donna fatta di un anno o due oltre la trentina, le linee del suo carattere erano fissate, e piegarle in direzione contraria sarebbe stato intollerabile. Quindi se ne stava mesta alla finestra del salotto. Così la Bartolomeo aveva battezzato la biblioteca, fiaccata dal peso della crinolina che remissivamente aveva adottato. Non aveva mai indossato un abito tanto pesante e tanto cupo che le impacciasse tanto i movimenti. Non poteva più misurare a gran passi il giardino coi suoi cani, o correre leggera per l'erta della collina e gettarsi sotto la quercia. Le gonne si tiravano dietro foglie umide e paglia, il vento le rendeva malfermo il cappellino piumato, le scarpine si inzuppavano e si infangavano immediatamente. I suoi muscoli avevano perso elasticità. Diventò apprensiva, temendo che ci fossero dei ladri nascosti dietro il rivestimento di legno e per la prima volta in vita sua nei corridoi. Ebbe paura dei fantasmi. Tutte queste cose la resero a poco incline a sottomettersi alla nuova scoperta, fosse opera della regina Vittoria o di altri, cioè che ogni uomo, ogni donna, ha un compagno predestinato nella vita, che protegge e dal quale è protetto, finché morte non li separi. E sentiva che sarebbe stato un conforto appoggiarsi, sedersi, sì, stendersi, e non rialzarsi mai, mai, mai più. Ecco come lo spirito agiva su di lei, malgrado tutto il suo passato orgoglio, e mentre scivolava giù per la scala delle emozioni, fino a quelle inconsuete regioni basse, quelle vibrazioni e quei fremiti che erano stati così insinuanti ed enigmatici, si modulavano in melodie celesti, finché le parve che gli angeli toccassero corde d'arpa con bianche dita, e che tutto il suo essere fosse pervaso da una serafica armonia. Ma a chi appoggiarsi? Lo chiese ai venti selvaggi d'autunno. Era ottobre adesso, umido come al solito. Non all'arciduca. Aveva sposato una grandama e da parecchi anni cacciava la lepre in Romania. Non a Mr. M. Si era convertito al cattolicesimo. Non al marchese di C. Cuciva sacchi al bagno penale di Botany Bay. Non a Lord O. Da tempo era finito in bocca ai pesci. In un modo o nell'altro tutti i vecchi amici se n'erano andati. E le Nell e le Kit di Drury Lane, benché le fossero molto care, offrivano ben poco appoggio. «A chi?» domandava, volgendo gli occhi alle nubi vorticose, serrandosi le mani, mentre si inginocchiava nel vano della finestra, e pareva in quell'atto l'immagine stessa della femminilità implorante. «Posso appoggiarmi?» Le parole si formavano da sole, le mani le si serravano da sole, involontariamente come la penna aveva scritto di moto proprio. Non era Orlando a parlare, ma lo spirito del tempo. Ma chiunque fosse, nessuno le rispose. I corvi volteggiavano sparsi tra le nubi violette dell'autunno. Finalmente la pioggia era cessata e il cielo aveva un'iridescenza che la invogliò a mettersi il cappello piumato e le scarpine allacciate e a fare una passeggiata prima di cena. «Tutti hanno un compagno, tranne me», rifletteva attraversando lenta e stanca il cortile. Ecco i corvi e perfino Canuto e Pippin, per quanto effimeri fossero i loro legami, quella sera sembravano aver trovato un compagno. «Mentre io, che sono la padrona di tutto», pensò guardando verso le innumerevoli finestre blasonate dei saloni, «sono nubile, sono senza compagno, sono sola». Mai prima di allora aveva nutrito pensieri simili. Ora la opprimevano senza scampo. Invece di spalancare il cancello, picchiò con la mano guantata perché il custode venisse ad apriglielo. Bisognava appoggiarsi a qualcuno, pensò, non fosse altro che il custode. E quasi quasi avrebbe voluto fermarsi con lui per aiutarlo ad arrostire la bistecca su un secchio di brace, ma era troppo timida per chiederglielo. Così si inoltrò da sola nel parco, dapprima esitante e timorosa di imbattersi in qualche cacciatore di frodo o guardacaccia o inserviente, meravigliati di vedere una gran dama andarsene in giro da sola. Ad ogni passo gettava occhiate nervose, temendo che qualche forma maschile fosse nascosta dietro un cespuglio di ginestra o che una mucca infuriata la caricasse a testa bassa. Ma c'erano solo i corvi che si pavoneggiavano in cielo. Una piuma blu acciaio cade tra l'erica. Amava le piume degli uccelli selvatici. Da ragazzo ne faceva collezione. La raccolse e se la puntò sul cappello. L'aria soffiava sul suo spirito, lo rinfrancava. I corvi continuavano a ruotarle sul capo in spirali e le piume cadevano lucenti, l'una dopo l'altra, nell'aria purpurea. Lei li seguì col mantello svolazzante attraverso la brughiera, su per la collina. Da anni non si spingeva così lontano. Già 6 piume aveva raccolto nell'erba, lisciandole con le dita, premendovi le labbra per sentirne il piumaggio morbido e brillante. Allorché vide scintillare sul fianco della collina uno stagno argentato, misterioso al pari del lago in cui Serbe di Ver gettò la spada di Re Artù. Una piuma isolata tremolò nell'aria e cadde in mezzo allo stagno. Allora una strana estasi la invase. La salì il selvaggio impulso di seguire gli uccelli fino ai confini del mondo, di gettarsi sull'erba madida e là bere l'oblio, mentre sul suo capo risuonava la risata rauca dei corvi. Affrettò il passo, corse, incespicò. Le dure radici d'erica la fecero cadere. Si era rotta la caviglia. Non riuscì ad alzarsi, ma era paga di starsene così. Aveva nelle orecchie la risata rauca dei corvi. Aveva nelle narici il profumo di mortella e di spirea. «Ho trovato il mio compagno», mormorò. «È la brughiera». «Sono la sposa della natura», sussurrò, abbandonandosi rapita al freddo abbraccio dell'erba, tra le pieghe del mantello, nel fosso vicino allo stagno. «Qui voglio restare». Una piuma le cadde sulla fronte. «Ho trovato una corona più verde dell'alloro. La mia fronte sarà sempre fresca. Queste sono piume di uccelli selvatici, di gufo, di civetta. Farò sogni selvatici. Le mie mani non porteranno anello nuziale», continuò sfilandosi l'anello dal dito. «Le cingeranno le radici». «Ah!» sospirò affondando voluttuosamente la testa nel molle cuscino. «Per tanti secoli ho cercato la felicità e non l'ho trovata, la fama e l'ho perduta, l'amore e non l'ho conosciuto, la vita e guarda è meglio la morte. Ho conosciuto tanti uomini e tante donne e non ne ho compreso nessuno. Meglio giacere qui in pace, con solo il cielo sopra», come mi diceva tanti anni fa lo zingaro in Turchia. E fissò la mirabile spuma dorata che le nubi avevano formato gonfiandosi, e un attimo dopo vi scorse un sentiero e una fila di cammelli attraversare un deserto roccioso tra nubi di polvere rossa. E poi, passati i cammelli, restarono solo le montagne, altissime e piene di dirupi e pinnacoli rocciosi. E poi le parve di udire lo scampanio delle capre attraverso i passi, nelle cui gole fiorivano campi di iris e genziane. E il cielo mutò e i suoi occhi si abbassarono sempre più fino alla terra incupita di pioggia. E videro la gran gobba dei South Downs scorrere in un'onda sola lungo la costa. E là, dove la terra si divideva, si scorgeva il mare solcato da navi. E immaginò di udire in alto mare il rombo di un cannone. Pensò dapprima, è l'armata, e poi pensò, no, è Nelson. E poi ricordò che quelle guerre erano finite e che quelle navi erano dei mercantili affaccendati e le vele sul fiume sinuoso erano di imbarcazioni da diporto. Vide anche il bestiame sparso sui campi bruni, pecore e mucche, e vide i lumi accendersi qua e là alle finestre delle fattorie e le lanterne muoversi tra il bestiame, quando il pastore e il bovaro facevano il giro. Poi le luci si spensero, spuntarono le stelle e formarono un groviglio in cielo. Stava per addormentarsi con le piume bagnate sul viso e l'orecchio contro il suolo quando udì, nel profondo, una sorta di martello sull'incudine. O era un battito di cuore. Tic-toc, tic-toc. Così martellava, così risuonava l'incudine o il cuore nel centro della terra. Poi, mentre ascoltava, le sembrò mutarsi nel trotto di un cavallo. 1, 2, 3, 4, contò. Poi lo sentì incespicare. Poi, mentre si avvicinava sempre più, udì uno schianto di rami, l'affondare degli zoccoli nel pantano. Il cavallo le era quasi addosso. Si alzò a sedere, imponente e scuro contro il cielo chiazzato di giallo dell'alba, coi pivieri che gli si alzavano e gli si posavano intorno, vide un uomo in sella. Il cavallo si fermò. «Signora?» gridò l'uomo balzando a terra. «Siete ferita?» «Sono morta, signore», rispose lei. Pochi minuti dopo erano fidanzati. La mattina seguente, mentre facevano colazione, lui le disse il suo nome, Marmaduke Bonthrop Shelmerdine Esquire. «Lo sapevo!» disse lei, perché c'era in lui qualcosa di romantico e cavalleresco, appassionato, malinconico, eppure risoluto, che ben si accordava con quel nome selvaggio dalle piume nere. Un nome che nella mente di lei aveva il bagliore azzurro acciaio delle ali dei corvi, il riso rauco delle loro strida, il cadere serpeggiante delle loro piume verso lo stagno argentato, e molte altre cose che descriveremo tra breve. «Il mio è Orlando», disse, ma lui l'aveva indovinato. Se si vede una nave con le vele spiegate al sole venire dai mari del sud e solcare il Mediterraneo, si dice subito «Orlando», spiegò. In effetti, benché la loro conoscenza fosse così recente, in 2 secondi al massimo avevano indovinato, come sempre accade tra innamorati, tutto ciò che tra loro aveva una qualche importanza. E non restava che aggiungere qualche particolare irrilevante, come i loro nomi, dove abitavano e se erano mendicanti o benestanti. Lui possedeva un castello nelle Ebridi, ma disse era in rovina. I gabbiani facevano baldoria nella sala dei banchetti. Era stato soldato e marinaio e aveva esplorato l'Oriente. Adesso era in procinto di raggiungere il suo brigantino a Falmouth. Ma il vento era caduto e solo quando avesse soffiato la brezza di sud-ovest avrebbe potuto salpare. Orlando gettò un'occhiata rapida dalla finestra del tinello al leopardo dorato sulla banderuola. Per fortuna la coda puntava dritta a est, ferma come una roccia. «Oh, Shell, non lasciarmi!» gridò. «Sono pazza d'amore per te!» disse. Le parole le erano appena uscite di bocca che un sospetto orrendo invase simultaneamente i loro animi. «Sei una donna, Shell!» gridò lei. «Sei un uomo, Orlando!» gridò lui. «Mai!» Da che mondo è mondo si vide una simile scena di proteste e dimostrazioni. Quando fu finita e si furono di nuovo seduti, lei gli chiese cosa intendeva con quel discorso sulla brezza di sud-ovest, dove era diretto. A Capo Horn, rispose lui laconico e arrossì. L'uomo doveva arrossire come la donna, benché in circostanze diverse. Solo con grande insistenza e con molta intuizione da parte sua, lei riuscì a sapere che egli aveva dedicato la vita alla più disperata e splendida delle avventure, cioè doppiare il Capo Horn in piena tempesta. Aveva avuto gli alberi maestri abbattuti, le vele ridotte a brandelli. Dovette strappargli la confessione a viva forza. A volte la nave era affondata e lui era stato l'unico superstite, su una zattera con una galletta. «È l'unica cosa che resta da fare oggigiorno», disse timidamente, servendosi grandi cucchiaiate di marmellata di fragole. La visione di quel ragazzo, perché era poco più di un ragazzo, che succhiava mentine di cui andava pazzo nel bel mezzo della tempesta, mentre gli alberi maestri si spezzavano, le stelle roteavano e lui urlava rapidi comandi: «Tagliare quella cosa caduta, gettare a mare quell'altra», le fece venire le lacrime agli occhi, le più dolci lacrime, notò, che mai avesse versato. «Sono una donna», pensò, «una vera donna, finalmente». Dal profondo del cuore ringraziò Bonthrop di averle dato quella gioia rara e inaspettata. Se non avesse avuto il piede sinistro azzoppato, gli si sarebbe seduta sulle ginocchia. «Shell, tesoro», ricominciò, «dimmi!» E così chiacchierarono per 2 ore e più, forse del Capo Horn, forse no, ma poco importa trascrivere quel che si dissero. Si conoscevano tanto bene che potevano parlare di qualunque cosa, cioè di nulla, o di cose sciocche e prosaiche, come del mondo, di cuocere l'omelette, o dove comprare i migliori stivali di Londra, cose che tolte dal contesto non hanno sapore, ma che, in quello stato, sono di una bellezza sorprendente. È accaduto, infatti, che grazie alla saggia economia della natura, il nostro spirito moderno può quasi fare a meno delle parole. Bastano le espressioni più comuni, dato che non c'è espressione che basti, perché la conversazione più semplice è spesso la più poetica, e la più poetica è, precisamente, quella che non si può trascrivere. Per queste ragioni lasceremo qui un ampio spazio vuoto che sta ad indicare che lo spazio è stracolmo. Dopo alcuni giorni di questi discorsi, Orlando Cara stava cominciando Shell, quando fuori si udì uno stropiccio. E Basket, il maggiordomo, entrò ad annunciare che di sotto c'erano 2 poliziotti con un mandato da parte della regina. «Fateli salire», disse laconico Shelmerdin, come se fosse sul ponte della sua nave, mettendosi per istinto in posa davanti al caminetto, con le mani dietro la schiena. 2 ufficiali in uniforme verde bottiglia, manganello al fianco, entrarono e si misero sull'attenti. Terminate le formalità, consegnarono nelle mani di Orlando, come esigeva il loro mandato, un documento legale di natura molto solenne, a giudicare dai sigilli di cera lacca, dai nastri, dalle autentiche e dalle firme, tutte della massima importanza. Orlando vi dette una scorsa, poi, sottolineando con l'indice della destra, lesse ad alta voce i seguenti passi che erano i più significativi. «Le sentenze sono state pronunciate, lesse, alcune mio favore, come ad esempio, altre no. Matrimonio turco annullato, ero ambasciatore a Costantinopoli», Shell spiegò. «Figli dichiarati illegittimi, mi erano attribuiti 3 figli da Pepita, una ballerina spagnola. Dunque non ereditano, meno male. Sesso? Ah, cosa dice del sesso? Il mio sesso», lesse con una certa solennità, «è dichiarato indiscutibilmente e senz'ombra alcuna di dubbio, che cosa ti dicevo un minuto fa, Shell? Femminile. I beni, ormai liberi in perpetuo da sequestro, sono inalienabili, trasmessi ai miei eredi maschi o in mancanza di matrimonio», ma qui si spazientì di tutta quella verbosità legale e disse: «ma non ci sarà mancanza di matrimonio e di eredi, quindi il resto si può considerare letto». Dopodiché appose la sua firma in calce sotto quella di Lord Palmerston ed entrò in possesso indisturbato dei suoi titoli, della sua casa e dei suoi beni, ora così ridotti a causa delle esorbitanti spese processuali, che per quanto fosse tornata estremamente nobile, era anche eccessivamente povera. Quando l'esito della causa fu reso noto e la voce volò più rapida del telegrafo che l'ha soppiantata, tutta la città fu in festa. Cavalli furono attaccati alle carrozze per il solo gusto di staccarli. Calessi e landò vuoti vennero scarrozzati incessantemente per il corso. Si pronunciarono discorsi davanti al bull, vi si rispose dallo stag. La città fu illuminata, cofanetti dorati vennero accuratamente sigillati sotto campane di vetro, monete vennero debitamente e coscienziosamente sepolte sotto le pietre, vennero fondati ospedali, vennero inaugurati i club del topo e del passero, donne turche vennero arse a dozzine in effigie sulla piazza del mercato, insieme a dozzine di contadinotti con la scritta «Sono un vile pretendente» che usciva loro dalla bocca. Ben presto si videro i pony color crema della regina trottare per il viale, con l'ordine per Orlando di andare a cena e a dormire al castello quella sera stessa. Il suo tavolo, come in una precedente occasione, fu sepolto sotto una valanga di inviti dalla contessa di R, da Lady Q, da Lady Palmerston, dalla marchesa di P, da Mrs. W. E. Gladstone e altri che sollecitavano il piacere della sua compagnia, ricordandole l'antica amicizia tra le loro famiglie, eccetera. Tutto questo è opportunamente chiuso qui sopra, tra parentesi, quadre, per la buona ragione che nella vita di Orlando fu una parentesi senza importanza. La salto per proseguire il resto. Mentre sulla piazza del mercato ardevano i falò, lei se ne stava nei boschi sola con Shelmerdin. Così bello era il tempo che gli alberi stendevano i rami fermi sopra di loro e se una foglia cadeva, cadeva così lenta, macchiata di rosso ed oro, che per mezz'ora la si vedeva volteggiare, cadendo prima di posarsi, infine, sul piede di Orlando. Raccontami, Mar, diceva, e qui bisogna spiegare che quando lo chiamava con la prima sillaba del nome, lei era in uno stato d'animo sognante, amoroso, remissivo, domestico e un po' languido, come se bruciassero legni aromatici. E fosse sera, ma non ancora ora di vestirsi, e fuori fosse un po' umido, quel tanto da far luccicare le foglie. Ma con l'usignolo che canta ugualmente tra le azalee, due o tre cani che abbaiano in qualche fattoria lontana, poi un altro cane, un gallo che canta, tutto questo il lettore dovrebbe immaginare nella sua voce. Raccontami, Mar, diceva, raccontami del capo Horn. Allora Shelmerdin costruiva per terra un modellino del capo, con ramoscelli, foglie secche e un paio di gusci di lumaca vuoti. Questo è il nord, diceva, questo è il sud. Il vento viene più o meno da qua. Il brigantino va, fa vela verso ovest. Abbiamo appena abbassato il parrocchetto di mezzana e vedi, qui dove c'è questo filo d'erba, entra nella corrente segnata. Dove sono la carta e i compassi, Nostromo? Ah, grazie, così va bene. Segnata dal guscio di lumaca. La corrente lo investe a tribordo. Allora bisogna ammainare il fiocco se non vogliamo essere scaraventati a babordo. Qui dove c'è questa foglia di faggio, perché, capisci, cara? E così andava avanti, e lei beveva ogni parola interpretandola nel giusto senso, cioè vedeva, senza che lui dovesse parlargliene, la fosforescenza sulle onde, i ghiaccioli che tintinnavano tra le sartie, lo vedeva arrampicarsi in cima all'albero maestro, nel mezzo dell'uragano, meditarvi sul destino umano, ridiscendere, bere un whisky e soda, scendere a terra, cadere nelle grinfie di una negra, pentirsene, assolversene, leggere Pascal, decidere di scrivere di filosofia, comprare una scimmia, discutere sul vero scopo della vita, optare per Capo Horn e così via. Queste e mille altre cose capì che lui diceva e quando lei rispondeva «Sì, le negre sono seducenti, vero?» lui che le aveva detto che la scorta di gallette stava per finire, fu sorpreso e incantato vedendo quanto a fondo lei lo comprendesse. Sei proprio certa di non essere un uomo? Le chiedeva ansioso. E lei gli faceva eco. È possibile che tu non sia una donna? E allora dovevano farne la prova senza altri preamboli. Ciascuno era tanto sorpreso dell'istantaneità della simpatia dell'altro, era per ciascuno una tale rivelazione che una donna potesse essere tollerante e franca come un uomo e un uomo bizzarro e sottile come una donna, che dovevano farne subito la prova. E così continuavano a parlare, o meglio a capirsi, cosa in cui consiste l'arte essenziale della conversazione, in un'epoca in cui le parole diventano ogni giorno più povere in confronto alle idee, che le gallette sono finite, deve stare per baciare una negra al buio dopo aver letto per la decima volta la filosofia del vescovo Berkeley. Ne consegue che solo i grandi maestri dello stile sanno dire la verità, e quando ci si imbatte in uno scrittore elementare, si può concludere senza ombra di dubbio che il poveretto mente. Così parlavano, poi, quando i suoi piedi erano ben coperti di maculate foglie autunnali, Orlando si alzava, vagava in solitudine nel cuore del bosco, lasciando Bonthorpe seduto tra i gusci di lumaca a fabbricare modellini del capo Horn. Bonthrop, diceva, me ne vado. Quando lo chiamava col secondo nome, Bonthrop, il lettore dovrebbe capire che il suo animo era incline alla solitudine. Percepiva entrambi come due granelli nel deserto e non desiderava altro che andar sola incontro alla morte, perché la gente muore ogni giorno, muore a tavola, oppure così, all'aperto, nei boschi d'autunno. E mentre i falò levavano alte le fiamme e Lady Palmerston o Lady Derby la invitavano a cena ogni sera, Il desiderio di morte la sopraffaceva e quando diceva Bonthorpe diceva in realtà «sono morta». E avanzava come un fantasma tra il pallore spettrale dei faggi e si seppelliva in profonda solitudine, come se, spenta ogni traccia di rumore e agitazione, fosse libera di mettersi in cammino. Tutte cose che il lettore dovrebbe udire nella sua voce quando diceva Bonthorpe, e dovrebbe aggiungervi, per meglio illuminare la parola, che anche per lui aveva il significato mistico di separazione, isolamento, del passeggiare incorporeo sul ponte del suo brigantino in mari insondabili. Dopo alcune ore di morte, all'improvviso, una gazza gridò «Shelmerdin!» e lei, chinandosi, raccolse uno di quei crocchi autunnali che per alcuni significano proprio quella parola e se lo mise in seno insieme alla piuma di gazza che in spire azzurre era caduta nella faggeta. Poi chiamò «Shelmerdin» e la parola rimbombò qua e là per il bosco e lo colpì là dove era seduto nell'erba, intento a costruire modellini con gusci di lumaca. La vide e la sentì venire da lui con il croco e la piuma di gazza in seno e gridò «Orlando!», il che significava, e bisogna ricordare che quando colori brillanti come l'azzurro e il giallo si mischiano nei nostri occhi ne resta un riflesso nei nostri pensieri. Da prima un piegarsi e un ondeggiare di felci, come se qualcosa vi si aprisse un varco. Qualcosa che si rivelò una nave a vele spiegate, che rollava e beccheggiava, un po' trasognata, come se avesse un anno intero di giornate estive per compiere il suo viaggio. E così la nave sovrasta i flutti, beccheggia ora di qua, ora di là, nobile, indolente, cavalca la cresta di quest'onda e precipita nel baratro di quell'altra, e a un tratto... ecco che vi è sopra. Voi, dal vostro guscio di barchetta, alzate gli occhi a guardarla, con tutte le vele frementi, e poi, oh meraviglia, di colpo si affloscian sul ponte, e così Orlando si lasciò cadere nell'erba, accanto a Shelmerdin. Erano trascorsi così 8 o 9 giorni, ma il decimo, il 26 ottobre, Orlando se ne stava sdraiata tra le felci mentre Shelmerdin recitava Shelley, di cui sapeva a memoria le opere complete, quando una foglia, che si era staccata lenta dalla cima di un albero, frustò rapida il piede di Orlando. Ne seguì una seconda, poi una terza. Orlando rabbrividì e divenne pallida. Era il vento! Shelmerdin, ma ora sarebbe più appropriato chiamarlo Bonthorpe, balzò in piedi. «Il vento!» esclamò. Di corsa attraversarono insieme il bosco, mentre il vento copriva la loro corsa di foglie fino al cortile grande, poi a quelli piccoli, seguiti dalla servitù spaventata che posava scope e casseruole, finché giunsero alla cappella, e lì furono accesi dei ceri più in fretta possibile, chi rovesciando un banco, chi spegnendo un moccolo. Le campane suonarono, la gente accorse a distesa, e alla fine comparve il reverendo Dapper, che si annodava ancora il collaretto bianco e chiedeva il libro di preghiere. Gli cacciarono in mano il libro di preghiere della Regina Maria. Egli sfogliò le pagine, cercando affannosamente, poi disse «Marmaduke Bonthorpe Shelmerdin e Lady Orlando, inginocchiatevi!» Ed essi si inginocchiarono, ora in luce, ora in ombra, a seconda delle luci e delle ombre che filtravano, confuse dalle vetrate dipinte. E tra uno sbattere di innumerevoli porte e una specie di strepito di rame da cucina, l'organo suonò. Il suo bubbolio ora cresceva, ora si affievoliva, e il reverendo Dapper, che era ormai molto vecchio, cercò di alzare la voce su tutto quel frastuono, ma nessuno lo sentì. E poi ci fu un attimo di silenzio e una parola. Forse le fauci della morte suonò chiara, mentre tutti i servi del castello continuavano ad accalcarsi per ascoltare, ancora col rastrello o la frusta in mano, e alcuni cantavano a squarciagola e altri pregavano. Poi un uccello sbatté contro la vetrata e ci fu uno scoppio di tuono per cui nessuno udì la parola «obbedite» né vide, se non in un lampo dorato, l'anello passare da una mano all'altra. Tutto era movimento e confusione. Poi si alzarono, in un rimbombo di organo, un guizzar di lampi e un rovescio di pioggia, e Lady Orlando, con l'anello al dito, uscì in cortile nella sua veste leggera e tenne la staffa oscillante, perché il cavallo aveva già il morso e la briglia e la schiuma ancora sul fianco, per far montare in sella il marito, che lo fece d'un balzo, Il cavallo scattò in avanti e Orlando, in piedi, gridò «Marmaduke Bonthrop Shelmerdin!» E lui le rispose «Orlando!» E le parole si infransero, vorticando come falchi selvaggi, salendo tra le guglie. Sempre più in alto, sempre più lontano, sempre più rapide, vorticarono, finché si infransero e caddero al suolo in una pioggia di sillabe. E lei rientrò. Capitolo sesto. Orlando entrò in casa, era tutto assolutamente calmo, tutto era silenzio. Lì c'era il calamaio, lì la penna, lì il manoscritto del poema interrotto nel bel mezzo di un tributo all'eternità. Stava proprio per dire, quando Basket e la Bartholomew l'avevano interrotta col tè, che nulla cambia. E poi, nello spazio di 3 secondi e mezzo, tutto era cambiato. Si era rotta una caviglia, si era innamorata, aveva sposato Shelmerdin. Lo provava l'anello nuziale al dito. È vero che ce l'aveva infilato lei stessa prima di incontrare Shelmerdin, ma era stato peggio che inutile. Ora girava e rigirava l'anello con venerazione superstiziosa, bene attenta a che non le scivolasse oltre la falange. L'anello nuziale si deve portare all'anulare della mano sinistra, disse, come una bambina che ripete attentamente la lezione, se si vuole che serva a qualcosa. Così parlava, a voce più alta e solenne di quanto avrebbe voluto, come per essere udita da qualcuno su cui far buona impressione. Ora che era finalmente in grado di raccogliere le idee, pensava all'effetto che avrebbe prodotto la sua condotta sullo spirito del tempo. Era estremamente ansiosa di sapere se il passo compiuto, fidanzandosi con Shelmerdin e poi sposandolo, ne avesse incontrato l'approvazione. Certamente si sentiva più se stessa, il dito non le aveva più formicolato, o almeno in misura trascurabile, da quella notte nella brughiera, eppure non poteva negare di avere i suoi dubbi. Era sposata, è vero, ma avere un marito, sempre in procinto di doppiare il capocorno, vuol dire essere sposati? Volerli bene vuol dire essere sposati? Voler bene ad altri vuol dire essere sposati? E infine, se si desidera ancora e sempre, più di ogni altra cosa al mondo, scrivere versi, vuol dire essere sposati? Aveva i suoi dubbi, ma ne avrebbe fatto la prova. Guardò l'anello, guardò il calamaio. Osava? No, non osava, ma doveva. No, non poteva. Che fare allora? Svenire, se possibile. Ma non si era mai sentita così bene in vita sua. Oh, al diavolo tutto quanto! Gridò con un guizzo dell'antico spirito. Avanti! E intinse tutta la penna nell'inchiostro, risoluta. Con sua grande sorpresa, non ci fu nessuna esplosione. Estrasse il pennino. Era umido ma non gocciolava. Scrisse. Le parole stentavano un po' a venire, ma alla fine vennero. Però avevano senso. Si chiese, presa dal panico all'idea che la penna le avesse di nuovo giocato uno dei suoi tiri involontari. Lesse e poi giunse in un campo dove l'erba in rigoglio era ombrata da calici grevi di fritillarie, dal cupo e strano serpentino fiore chiuse in funebre porpora come fanciulle egizie. Mentre scriveva sentiva una forza, si ricordi che abbiamo a che fare con una delle più oscure manifestazioni dell'animo umano, che leggeva al di sopra della sua spalla. E quando ebbe scritto fanciulle egizie, la forza le intimò di fermarsi. L'erba pareva dire la forza, sottolineando le parole, con un righello come un'istitutrice. Va bene. I calici grevi di fritillarie, ammirevole. Il serpentino fiore, un'idea forse ardita per la penna di una signora, ma Wordsworth la approva senz'altro. Ma le fanciulle, sono necessarie le fanciulle. Avete un marito al capo, dite? Ah, va bene, lasciamo andare. E lo spirito passò oltre. Ora, in spirito, perché tutto questo aveva luogo in spirito, Orlando si inchinò in profonda obbedienza allo spirito del tempo, come, per paragonare grandi cose alle piccole, il viaggiatore, che sapendo di avere un pacchetto di sigari nell'angolo della valigia, si inchina all'impiegato di dogana che gli ha fatto col gesso uno sgorbio compiacente sul coperchio. Temeva fortemente che se lo spirito avesse esaminato con attenzione il contenuto della sua mente, avrebbe trovato qualcosa di altamente illecito, per il quale avrebbe dovuto pagare una grossa multa. Se l'era cavata per il rotto della cuffia, ce l'aveva fatta a malapena. Grazie a un'abile deferenza verso lo spirito del tempo, mettendosi un anello nuziale e trovando un uomo nella brughiera, amando la natura e rinunciando a ogni satira, a ogni cinismo e psicologismo, tutte merci che sarebbero state subito scoperte, a superare felicemente l'esame. dette un gran sospiro di sollievo, e ne aveva ben donde, perché la transazione tra uno scrittore e lo spirito del tempo è infinitamente delicata. E tutta la fortuna delle sue opere dipende da una felice intesa fra i due. Orlando aveva messo le cose in modo tale da trovarsi in un'ottima posizione. Non aveva bisogno di lottare col suo tempo né di sottomettervisi. Gli apparteneva, pur restando se stessa. Perciò adesso poteva scrivere e scrisse, scrisse, scrisse e scrisse. Ora era novembre. Dopo novembre viene dicembre, poi gennaio, febbraio, marzo e aprile. Dopo aprile viene maggio, seguono giugno, luglio, agosto, poi viene settembre, quindi ottobre. E così, vedete, siamo tornati a novembre, è trascorso un anno intero. Questo metodo di scrivere una biografia, pur avendo i suoi pregi, è un po' nudo. E se continuiamo di questo passo, il lettore potrà protestare che il calendario sa recitarselo da sé, risparmiando così il prezzo che la casa editrice avrà ritenuto opportuno apporre a questo libro. Ma cosa può fare il biografo quando il suo protagonista lo ha messo nella situazione in cui ci ha messi ora Orlando? La vita, ne convengono tutti coloro la cui opinione vale la pena di essere ascoltata, è l'unico argomento adatto al romanziere o al biografo. La vita, hanno stabilito le stesse autorità, non ha nulla a che vedere con lo starsene seduti in poltrona a meditare. Il pensiero e la vita sono due poli opposti. Quindi, poiché starsene in poltrona a meditare è appunto quel che fa ora Orlando, a noi non resta altro che recitare il calendario, sgranare il rosaio, soffiarsi il naso, attizzare il fuoco. Guardare fuori dalla finestra aspettando che abbia finito. Orlando sedeva così immobile che si sarebbe sentito cadere uno spillo. Fosse almeno caduto uno spillo, sarebbe stato un segno di vita. O se una farfalla fosse entrata dalla finestra e si fosse posata sulla poltrona, avremmo potuto scrivere qualcosa su questo. O supponiamo ancora che lei si fosse alzata per uccidere una vespa. Allora potremmo subito sfoderare la penna e scrivere, perché ci sarebbe stato uno spargimento di sangue, anche se sangue di vespa. Dove c'è sangue c'è vita. E se l'uccidere una vespa è un'inezia infinitesimale in confronto all'uccidere un uomo, è sempre un soggetto più adatto per il romanziere e il biografo di questo starsene con la testa fra le nuvole, di quel pensare, di quello stare in poltrona un giorno dopo l'altro, con una sigaretta, un foglio di carta, una penna e un calamaio. Ah, se solo lasciateci deplorare, perché la nostra pazienza si sta esaurendo, i protagonisti avessero più riguardo per i loro biografi. Cosa c'è di più irritante che vedere un eroe, su cui si è profuso tempo e fatica, sgusciarci via tra le mani e indulgere, guardate da voi, i suoi sospiri, i singhiozzi, i rossori, i pallori, gli occhi ora luminosi come lampade, ora smunti come aurore. Cosa c'è di più umiliante che vedere tutta quella parata muta di emozioni e di fervore ostentataci sotto gli occhi, quando sappiamo che la sua causa, pensiero e immaginazione, non ha alcuna importanza? Ma Orlando era una donna. Lord Palmerston l'aveva appena attestato. E quando si scrive la vita di una donna, si può, per consenso comune, mettere da parte il bisogno di azione e sostituirlo invece con l'amore. L'amore, ha detto il poeta, è tutta la vita della donna. E se guardiamo per un attimo Orlando che scrive seduta al tavolo, dobbiamo ammettere che mai ci fu donna più degna di questo nome. Sicuramente, poiché è donna, è una bella donna, e nel fiore degli anni, non tarderà ad abbandonare queste pretese di scrivere e di pensare, e comincerà almeno a pensare a un guardacaccia. Finché pensa un uomo, nessuno critica una donna che pensa. E poi gli scriverà un bigliettino, e finché scrive un bigliettino nessuno critica una donna che scrive. E gli darà appuntamento per domenica all'imbrunire, e domenica all'imbrunire verrà, e il guardacaccia fischierà sotto le sue finestre, tutte cose, ovviamente, che formano la sostanza della vita e l'unico argomento possibile di un romanzo. Orlando ne avrà fatta almeno una di queste cose? Ahimè, mille volte ahimè, Orlando non ne ha fatta nessuna. Allora, bisogna ammettere che era uno di quei mostri di iniquità che non amano. Era affettuosa coi cani, gentile con gli amici, era la generosità in persona verso una dozzina di poeti affamati, era appassionata di poesia, ma l'amore, come lo definiscono i romanzieri di sesso maschile, e chi, dopo tutto, parla con maggiore autorità, non ha nulla a che vedere con l'affetto, la fedeltà, la generosità o la poesia. L'amore significa sfilarsi la gonna e, ma sappiamo tutti cos'è l'amore. Era questo che faceva Orlando? La verità ci impone di negarlo. Se dunque il protagonista di una biografia non ama e non uccide, ma si limita a pensare e a immaginare, allora possiamo concludere che lui o lei non vale più di un cadavere e lasciarla perdere. L'unica risorsa che ci resta ora è guardare fuori dalla finestra. C'erano dei passeri, c'erano degli stornelli, c'erano diversi colombi e un paio di corvi, tutti occupati a modo loro. Chi trova un verme, chi una lumaca, chi svolazza su un ramo, chi fa una corsetta sull'erba. Poi un domestico in grembiule di tela verde attraversa il cortile. E probabilmente è probabile che se l'intenda con una delle sguattere, ma poiché non ce ne viene offerta nessuna prova visibile, in pieno cortile possiamo solo sperare che tutto vada per il meglio e lasciar perdere. Passano delle nuvole, ora lievi, ora dense, che offuscano un po' il colore dell'erba sottostante. La meridiana segna l'ora nel suo solito modo criptico. La mente comincia ad arrischiare qualche domanda pigra e oziosa su questa vita uguale. Vita canta, o meglio brontola, come una pentola sul fornello. Vita, vita, cosa sei tu? Luce o tenebra? Il grembiule di tela del secondo cameriere o l'ombra dello stornello sull'erba? Andiamo dunque in avanscoperta in questo mattino d'estate, quando tutto adora il prugno in fiore e l'ape? E con parole esitanti chiediamo allo stornello, che è un po' più socievole della lodola, che cosa gli passa per la testa quando sul bordo della pattumiera becchetta qualche capello della serva. Cos'è la vita? Chiediamo, appoggiati al cancello della fattoria. Vita, vita, vita, canta l'uccello, come se avesse ascoltato e capito cosa significa questa nostra noiosa e indiscreta abitudine di far domande in casa e fuori e di scrutare e cogliere margherite come fanno gli scrittori quando non sanno più che cosa dire. Allora vengono da me, dice l'uccello, e mi chiedono cos'è la vita, la vita, la vita. Poi ci arrampichiamo su per il sentiero della brughiera, fino all'alto ciglio della collina, che è di un cupo azzurro, vinoso e porporino. E vediamo una cavalletta che trascina verso casa nel buco una pagliuzza e dice, se a quello stridio si può dare un nome così sacro e tenero, la vita è fatica, o così interpretiamo il ronzio di quella gola soffocata di polvere. E la formica annuisce, e anche l'ape. Ma se restiamo tanto da interrogare le falene che giungono sul far della sera furtive tra le campanule pallidette dell'erica, esse ci sussurreranno all'orecchio una di quelle folli tiritere che i fili del telegrafo ripetono nelle tempeste di neve. Ihi, ahà, che ridere, dicono le falene. E ora che abbiamo interrogato l'uomo, gli uccelli e gli insetti, i pesci, ci dicono uomini che hanno vissuto solitari per anni in grotte verdi, per sentirli parlare, non parlano mai e poi mai, quindi forse sanno che cos'è la vita. Ora, che abbiamo interrogato tutti quanti senza essere diventati più saggi, ma solo più vecchi e più freddi, non abbiamo pregato un giorno di poter racchiudere in un libro qualcosa di così resistente e raro da poter giurare che fosse il senso della vita. Dobbiamo tornarcene indietro e dire francamente al lettore, che aspetta trepidante di sentire che cos'è la vita, che ahimè non lo sappiamo.